Welcome, Federico. All servers are ready. The security system is loaded. Ed eccoci di nuovo qui a Medium, il podcast su Netrunner. Allora, oggi parlo principalmente di un mio errore, ovvero non un errore fatto durante la partita di Netrunner, ma un errore fatto nei confronti, diciamo, della comunità di Netrunner, e quindi vorrei chiamare la puntata Mea Culpa. Ho appena scritto a Riccardo Vitelli del torneo, organizzatore del torneo di Octagon, che droppo la partecipazione e quindi non proseguo nel fare le partite. E questo per un semplice motivo, anzi dai, diciamo per un motivo apparentemente semplice, ma in realtà molto più complesso di quello che può sembrare. Quindi è il motivo per cui ve ne parlo oggi. La preparazione, la mancanza totale di preparazione. Mi sono iscritto al torneo e ho detto, ma sì, dai, mi iscrivo al torneo, poi vedo, metto dentro due mazzi che mi piacerebbe testare, che secondo me potrebbero funzionare in teoria, e la teoria è sempre meno efficace della pratica. E quindi sono partito con sparare subito due mazzi a Riccardo, provarne nei tre giorni che mancavano alla data di scadenza. Ho provato questi mazzi e non funzionavano. Infine mi sono presentato praticamente quindi al torneo con due mazzi non funzionanti, ma ci tengo a precisare che non è che non fossero funzionanti perché le carte dentro non sinergizzavano bene. Ora, sì, sicuramente avrebbero avuto la necessità di una smussatina completa, il mazzo l'avrebbe dovuta ricevere, ma in realtà non funzionavano in sinergia con me, cioè non le avevo mai provati, non avevo mai giocato contro altre corp o contro altri runner per vedere come comportarsi di conseguenza. Non solo, non avevo mai visto come funzionavano con il mio stile di gioco, quindi chiaramente se il tuo stile di gioco tende a fare molte run e hai invece un mazzo che per sua natura fa una run e chiude, va da sé che non potrai mai far funzionare quel mazzo, o perlomeno che dovrai aggiustare il tuo stile di gioco con il mazzo, o viceversa, aggiustare il mazzo al tuo stile di gioco affinché si armonizzino insieme. Mi presento quindi alla prima partita, chiaramente va molto male, due sconfitte, ma la cosa importante non è chi ha vinto o chi ha perso, la cosa importante è dire: abbiamo fatto una partita interessante, abbiamo fatto una partita tirata dove fino all'ultimo non si sapeva chi avrebbe vinto, abbiamo fatto una partita dove sono uscite fuori delle situazioni interessanti che ci fanno migliorare come giocatori? La risposta purtroppo è no, quindi è per questo che vi devo fare un mea culpa. Ho fatto giocare due match, quindi quattro partite complessive a due giocatori, perché ho fatto il primo e il secondo turno di Svizzera. E ho fatto giocare queste due partite poco interessanti, poco divertenti, poco brillanti, e tutto questo perché chiaramente sono andato a un torneo senza la dovuta preparazione, la quale non deve essere una preparazione orientata al vinci a tutti i costi, ma deve essere una preparazione orientata al onore al tuo nemico, e io non l'ho fatto, e per questo mi scuso con i due giocatori con cui ho giocato, e mi scuso anche con tutti i partecipanti al torneo in generale. È un comportamento che non è rispettoso, diciamo, del good sport, direbbero gli inglesi, cioè non sono stato sportivo nel presentarmi al meglio delle mie forze. Che altro dire? Auguro a tutti voi chiaramente di fare delle bellissime partite e delle partite molto molto interessanti da qui in poi. Un'unica cosa la vorrei dire è che ho vissuto in maniera molto molto angosciante questa cosa del torneo diluito nell'arco del tempo, cioè nel momento in cui faccio un torneo di un pomeriggio o di una giornata intera, mi presento con... l'idea era che mi sarei dovuto presentare con un mazzo almeno top tier nei confronti del meta attuale, giocarlo al meglio, magari arrivando a fine giornata dicendo: ah cavolo, quella carta lì non l'ho usata mai, forse l'avrei dovuto sostituire con quella, ma comunque un mazzo abbastanza ben congegnato e soprattutto smussato attraverso il gioco. Cosa che però attraverso Octagon mi risulta molto difficile, in primis perché Octagon per me è sempre stato la valvola di sfogo dei mazzi sperimentali, dei mazzi theory crafting, dei mazzi che non funzionano in pratica, ma in teoria se riesci a incastrare la combo sono bellissimi. Quindi non ho mai vissuto come dire Octagon come un luogo dove competere in maniera sana e sportiva, ma un luogo dove sperimentare e quindi usare gli altri giocatori un po' come delle mezze cavie, a meno che chiaramente diciamo non fossi in preparazione per un torneo. Ora, quando mi sono preparato per il torneo di Essen, ho passato praticamente un mese a playtestare i mazzi, aggiustarli, aggiustare il mio stile di gioco con lo stile di gioco del mazzo, e quindi non ho usato Octagon come strumento di playtest di giochi di mazzi strampalati, però è stato solamente in quel periodo. Infatti mi sono piazzato abbastanza bene, voglio dire, un secondo posto non è poi da buttare via. Ed è il motivo anche per cui non avete ascoltato podcast nel periodo di ottobre, fondamentalmente, se non all'inizio di ottobre. Al contrario, invece, tutto il resto delle volte che mi collego a Octagon gioco dei mazzi strampalati, sub-tier, che non funzionano tanto, cerco di aggiustarli, cerco di fare delle sperimentazioni. Ecco, quindi ho approcciato, essendo il torneo su Octagon, ho approcciato la cosa in questa maniera e sono stato punito, ma non punito sotto forma di sconfitta, che quella un po' me l'aspettavo, punito sotto forma di non divertimento, perché chiaramente quando ti confronti con una situazione nella quale il tuo avversario ti spacca il culo a mani basse, non si diverte lui, non mi diverto io. Quindi questo è il primo difetto. Secondo difetto, che chiaramente difetti per me, però secondo difetto, che forse un difetto un po' più generico per quanto riguarda il torneo di Octagon, è che probabilmente alla quinta, sesta partita giocherete, perché io ho droppato, giocherete con dei mazzi che sono completamente fuori dal meta attuale, quindi avrete dei mazzi con una o due espansioni uscite che non potrete utilizzare, mazzi quindi che sono rimasti congelati alla prima partita che avete fatto e quindi, come dire, non contribuiranno alla vostra esplorazione del metagame. Chiaramente poi MBN Fast Advance, Andromeda Count Siphon non credo che cambieranno poi così tanto, però per esempio Wayland con l'uscita di Off the Grid potrebbe cambiare radicalmente. Detto questo, io ringrazio ancora chi si è sbattuto per fare il torneo, ringrazio i giocatori che hanno giocato con me, vi auguro di divertirvi tantissimo e di non fare i miei stessi errori. Il motivo per cui ne sto parlando qui nel podcast è proprio perché voglio condividere i miei errori affinché qualcuno magari possa evitarli. È molto raro che gli esseri umani imparino dagli errori degli altri, però uno ci prova. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e ci sentiamo la prossima volta per una nuova puntata di Medium. Ciao!